la mia se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà. Forse un dì sapremo quello che vuol dire affogare il sangue con l'umanità. Quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Quando guardi il mondo senza aver problemi, cerca nelle cose la sensibilità, non è colpa mia se la tua realtà ti costringe a fare quella umanità. Ciao a tutte le compagne e i compagni che seguono Radio Asilo. La trasmissione di questa sera è dal titolo I movimenti di lotta locale e i fondi del PNR destinati ai comuni. Cioè il peso che debbano avere i movimenti di lotta locali per evitare che i fondi, che sono soldi nostri, che tra l'altro sono tutti a pagherò, e vengono destinate per il lavoro, per la sanità, per la scuola e non delle opere alla manovra reazionaria di Draghiana. Però è chiaro che oggi, stasera, ecco, lo spirito per affrontare questa tematica, come detto, di ogni compagno, di ogni compagna, è rivolta ad alcune problematiche molto grosse per i venti di guerra che spirano un po' in tutto il mondo. Noi ormai sono anni che noi sull'imperialismo americano e sul ruolo della guerra imperialista che noi poniamo sempre, diciamo, l'accento e poniamo anche la massima attenzione, ed è chiaro che quello che appare è che l'America è assatanata di guerra, la guerra su tutti i fronti a livello planetario. Cioè noi nella precedente trasmissione ponemmo l'attenzione su come diciamo l'America abbia, come devo dire, dal Pacifico al Mediterraneo, nelle zone dell'est europeo stia schierando la sua potenza di fuoco con minacce alla Russia e alla Cina. Pone l'intero pianeta, come abbiamo detto prima con il fiato, pone l'intero pianeta con... un attimo la sigaretta. Ci sta tenendo con il fiato sospeso, perché un'eventuale escalation sappiamo come inizia, ma non sappiamo come quanto finirà e che, diciamo, ripercussioni avranno, per che tipo di guerra e via dicendo. È chiaro che noi sappiamo bene che in ogni guerra, specialmente di carattere imperialista e colonialista, a pagarne le conseguenze sono le vittime, i civili e l'informazione. Ormai è storia. E ecco, non si ha mai la possibilità, proprio con tutti questi avvenimenti che stanno capitando nel mondo, in Europa, non si riesce mai a definire una scaletta, una tranquillità, una scaletta per affrontare il dibattito. Per dire, è chiaro che noi in questo periodo i problemi sono le diseguaglianze, la guerra, e qua ecco il concetto che poi no, fra poco andremo ad affrontare in modo anche sintetico, e il problema che a precarietà dell'intera umanità corrisponde a aumento degli armamenti, e quindi questo desiderio funesto di guerra, armamenti a più non posso, eccetera eccetera, e sempre il concetto del sempre del, di queste avvisaglie del muso del nucleare, anche militare, oltre che, diciamo, civile, di quelle che ci stanno proponendo anche in Italia con questo PNRR legato alla questione anche energetica. L'unica cosa positiva è data dalle giornate di oggi, e in special modo dalle manifestazioni che si sono organizzate, insomma, contro la mortalità dell'alternanza al lavoro. Sono ormai già due ragazzi che sono morti, e quello che ci fa ben sperare è quel che è successo specialmente a Torino, ma un po' in tutta Italia, insomma, dove la rabbia giovanile si è espressa, e specialmente a Torino con, diciamo, tentativo di occupare, diciamo, presidio occupazione della Confindustria, finalmente gli studenti non hanno subito, ma sotto alcuni aspetti anche simbolicamente le hanno date. A dispetto dei vari giornali che spicca per la sua filogovernabilità, filoatlantismo di Repubblica e della Sama, questa specie per la Repubblica ormai storica, insomma, che facevano più peso sugli infiltrati nei cortei, ma non sulla mortalità sui posti di lavoro. Qua oggi è porto pure un altro un altro essere umano, e anche se è morto in Svizzera, ma è un italiano che è stato schiacciato dalla gru, insomma, un'altra morte orribile, insomma. Quindi qua i morti aumentano ogni giorno, ma la cosa che più, oltre al codismo di questi giornali draghiani ormai, proprio sono insulsi, sono pericolosi nella loro insulsità, come se, non so se ho detto bene il termine, ma è il silenzio totale della CCL, ma veramente una cosa vergognosa sotto tutti i punti di vista, insomma. fortunatamente che ci sta questa generazione di adolescenti, non solo di giovani universitari e scuole medie superiori, che stanno riempiendo le piazze, stanno coinvolgendo le piazze proprio contro la mortalità sul lavoro, al di là del, diciamo, della scuola, alternanza scuola lavoro. Allora, proprio ecco perché, diciamo, è strettamente collegata a questo, quel che è avvenuto alla sede Confindustria a Torino, è strettamente collegata anche a quel che vorremmo lanciare come appello a un serio dibattito sulla questione dei movimenti di lotta locali, che debbono, con le loro mobilitazioni disoccupate, lotte sociali e non solo, cominciare a incidere su dove utilizzare i fondi del PNR. Per dire, nella nostra città già hanno deciso che i fondi del PNR verranno affidati a una società privata, che Salerno Mobilità, che non è altro che essere un intreccio di interessi politico-elettorali e clientelari, non solo locale ma anche a livello regionale. Quindi già la dimostra lunga dove andranno a finire i fondi regionali: andranno a finire al privato, andranno a finire al terzo settore, che sono ormai settori che sono così strettamente legati ai poteri locali e clientelari. E su queste cose, anche su queste cose, per dire, la totale assenza del sindacato. Ed ecco perché, per dire, noi ormai sono anni che stiamo spingendo, e abbiamo anche come rete precari lavoratori, abbiamo anche spesso nelle nostre iniziative di piazza, abbiamo lanciato, diciamo, come degli appelli affinché ci sia una mobilitazione, che sia maggior una opposizione diciamo decisa per questi fondi. Dei fondi, noi più spesso anche durante, in pieno lockdown, lanciamo la proposta di arrivare a una piattaforma sociale che, al momento che magari di ipotetica apertura e forme di libertà di movimento, si sarebbero dovute terminare piattaforme sociali e rilanciare movimenti di lotta sociale. Ma tutto questo, cari compagni e cari compagni, non è avvenuto né per la scuola, tranne la questione delle scuole aperte e via dicendo, né per la sanità, tranne qualche rara mobilitazione, ma non se ne parla più di queste situazioni. E non a caso oggi, a proposito di Confindustria, è uscito, diciamo, un rapporto diciamo che rileva che gli inattivi sforano la soglia del 34,5%, e le regioni che hanno la maglia nera sono la Sicilia e la Campania, in pratica il cuore del sud, pulsante del sud, al negativo però. Gli adulti, però, come devo dire, mentre questa percentuale rappresenta un'età giovanile, dai 15 ai 29 anni non stanno meglio chi è dai 30 ai 34 anni in poi, insomma. Che il lavoro non lo cercano più, che ci sta lavoro precario, lavoro nero e via dicendo. E questa è la vicenda è che, appunto, in Campania noi abbiamo questi problemi, che sono problema occupazionale, un problema decennale: i giovani senza lavoro, lavoro irregolare. In Campania, questo notate la Confindustria, il lavoro irregolare tocca il 35,6%, cioè, quindi un lavoratore su tre, diciamo, è a questa condizione di lavoro irregolare. E diciamo è che i dati rispetto a questa situazione, proprio nel sud i dati sono superiori a quello del resto d'Italia. Ed ecco perché noi poniamo il problema di questi recovery fund. Ricordiamo che questi saranno gli unici soldi che circoleranno almeno per 10-15 anni a livello comunale, a livello regionale, a livello nazionale. E quindi qua parliamo, vi sono quelle destinate ai comuni, sono 28,1 miliardi e diciamo che c'è il problema che i comuni debbono presentare i progetti e i bandi in scadenza nei prossimi due mesi per questi valgono sono di 10,8 miliardi per alcuni interventi che riguardano dovrebbero andare all'edilizia scolastica, al potenziamento del tempo pieno, alla mensa, sport, negli asili nido, nella scuola primaria, fino all'economia circolare. Però su alcune tematiche sono state prorogate la presentazione a metà marzo. E vediamo che questi miliardi coinvolgono pure la questione della transizione ecologica che però al momento hanno fatto un elenco di interventi, però non sono chiare. Chi ce l'hanno chiare soltanto sono i poteri locali che a livello tra i comuni e imprese stanno approntando dei progetti. Infatti uno l'abbiamo detto prima, si prevede che qua i fondi una società privata una volta mista verrà gestita direttamente dalla società Salerno Pulita e presumiamo che il resto degli altri fondi saranno gestiti tra le altre società partecipate che tra l'altro sono tutte sotto inchiesta e il terzo settore. Vediamo questi 15 miliardi degli interventi sono verranno investiti per la rigenerazione urbana. Il problema è proprio questo, insomma, è come li gestiranno. Ecco perché noi sulla questione della rigenerazione urbana dobbiamo controllare perché sotto noi abbiamo, è chiaro che noi nella nostra razionalità e a volte forse semplicità pensiamo che rigenerare urbanisticamente e urbanamente una città o una comunità ha un raggio d'azione molto ampio che va dal verde, la manutenzione, il dissesto idrogeologico e così anche il concetto del risparmio energetico. Però conoscendo i soggettini, conoscendo i progetti che stanno dietro questa controriforma reazionaria di Draghi, questi fondi verranno gestiti in tutt'altro modo, insomma. Ecco perché solo i movimenti, come storicamente il ruolo che hanno avuto è quello di andare a destinare, far destinare oltre alla rigenerazione urbana con le lotte, con l'opposizione politico-sociale, sociale e politico a una rigenerazione socio-economica e un tessuto socio-economico di una, oltre che ambientale di una comunità. Però è chiaro che noi dobbiamo controllare, dobbiamo anzi imporre che questo tipo di fondi vengono destinati effettivamente alla rigenerazione di una comunità, che gli aspetti urbani, urbanistici, ambientali, la salute, la scuola debbono essere primari. Però è chiaro, non fidarsi, anche perché ci sono pure il problema che ci sono ancora che questa spesa deve essere spalmata su tutti gli anni fino al 2026, e diciamo non sappiamo fino ad ora i comuni, gli enti locali che tipo di progetto, anche perché ecco, ci dobbiamo affidare a delle scoperte che magari nella incapacità, nella frettolosità di presentare progetti a livello nazionale si arrivi a delle risoluzioni proprio golpiste, perché noi sappiamo bene che nelle comunità ci stanno i partiti dei sindaci, ci stanno gli interessi privati che prevalgono, anche perché è chiaro, poi entreremo anche nell'ambito della questione legata alla questione occupazionale. Ora mettiamo un po' di musica, vediamo un attimo e ci sentiremo fra poco. Scopri la nuova generazione Hyaluron. Ripigliamo questa vicenda appunto, perché siamo partiti dalla Covid-19, la mortalità sul lavoro, anche sulla storia delle morti che stanno avvenendo ormai nell'alternanza lavoro dove muoiono adolescenti, ragazzi giovanissimi, e la giusta rabbia. La Confindustria, abbiamo detto il fatto della questione del PNR, in cui anche invitiamo e stimoliamo i compagni ad essere, diciamo, nelle piazze, ad opporci su come lo vorrebbero gestire. E vediamo che attorno a questi piani vediamo la mancanza totale, o meglio l'accodamento, la sudditanza dell'organizzazione sindacale a ciò che dice Draghi. E a proposito, voglio ricordare un bellissimo anniversario. È chiaro che mi sembra il 18, se non erro, il 18 febbraio del 77, la cacciata di Lama. E la cacciata di Lama, questo è un bellissimo anniversario. E vabbè, è chiaro che parliamo di quasi 45 anni fa, ed è, sembra, per tanti compagni, sembrava ieri per tanti compagni di una certa età, chi l'ha vissuto quelle cose, però sono passati 45 anni. Però scusatemi questa mia digressione, non lo so, comunque non è nostalgia, è chiaro che uno, se si guarda dietro le cose che noi abbiamo conquistato e ora ci troviamo, che, come dire, qua proprio lavori, vittime da schiavi, paghe da schiavi, totale sudditanza, se ha neanche senso un minimo ritegno all'atlantismo, guai che non è atlantista, è considerato un novax, cioè siamo proprio a sti livelli, insomma, con l'accodamento pure di questi giornali come Repubblica. Però ecco, qua anche Repubblica, il ruolo che ebbe Repubblica nel 77 a livello di delazione contro i compagni, vabbè, lasciamo perdere. Stavamo parlando dei recovery fund. Il recovery fund del PNR, voglio dire, quindi dei progetti e dei bandi legati ai bandi per la, diciamo, distribuzione di questi miliardi, che ribadiamo sono soldi nostri, che sono tutti a pagherò. E il problema e che, come al solito, ecco, ci sta il concetto dell'accelerazione. Draghi ha detto sì, presentate i progetti, ma noi dobbiamo risolvere subito, tanto è vero che abbiamo l'11, diciamo, perché bisogna, come devo dire, bisogna spendere alcune quote di questi soldi, questi miliardi, entro il 2026. E diciamo, è normale che, come devo dire, dare i soldi non è una cosa semplice. Fortunatamente ci sono anche dei vincoli legati pure. Sperando, ma fino ad ora questi vincoli non vengono rispettati dai pareri paesaggistici, le misure antimafia e via dicendo, ma su questo, diciamo, figuriamoci se queste cose verrebbero rispettate. È vero che bisogna però tener conto di alcuni dati. Abbiamo l'11 febbraio scorso il presidente dell'ANCI, dell'Associazione dei Comuni, Antonio De Gara, ha detto servono semplificazioni ulteriori, cioè nel senso che bisogna accelerare, e quando parliamo di semplificazione noi parliamo di applicabilità di norme, seppur ingiuste, seppur impopolari, seppur diciamo ambigue. Queste, non bisogna, come devo dire, dare fastidio al manovratore, quindi bisogna semplificare, e quindi semplificare significa che non accettano intoppi. Quando parliamo di intoppi parliamo anche di movimenti di opposizione sociale che dovrebbero indirizzare questi fondi ad alcune tematiche di pubblico, di utilità sociale, ambientale, sanitaria, scolastica. E noi sappiamo che non sono diretto a questo, tanto è vero che questo è strettamente collegato anche al fatto che dicono che, diciamo, per arrivare i comuni, per arrivare alla realizzazione, quindi alla messa in pratica di questi fondi, di questi soldi, servono tecnici e esperti amministrativi, il che significa, noi allora vediamo che nei comuni, nei comuni, nelle pubbliche amministrazioni, non sono state più determinate forme di assunzione, e poi tra fine carriera, quota 100 e mancanza di assunzione, questo, diciamo, ci sta una carenza di personale. E vediamo abbiamo, come devo dire, per il sud, ecco, si prevedono in tutta Italia, per il sud in tutta Italia si debbono prevedere assunzioni separatamente di livelli alti, e quindi, diciamo, non si prevede un'assunzione a tempo indeterminato, ma si prevedono solo assunzioni a tempo determinato con i livelli alti. Non si parla più di assunzione di operai generici, ma si parla solo di professionisti e di amministrativi. Per cui, ecco, è strettamente collegata alla questione che noi abbiamo le pubbliche amministrazioni, come i comuni, che non sono più erogatori di servizi, ma controllori amministrativi dei servizi affidati ad esterno con convenzioni e diciamo, con, come devo dire, il problema quando si chiede, diciamo, semplificazione è andare ad arrivare all'assunzione, diciamo, delle assunzioni, di questo organico, ribadendo. E noi possiamo portare alcuni esempi. Partiamo dall'esempio, ecco, un primo esempio, un attimo. Take me now, baby, here's I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel you when I'm in your head. Take my hand, come undercover. They can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. Because tonight belongs to lovers. Because tonight belongs to life. Because tonight belongs to lovers. Because tonight belongs to us. Have I doubt when I'm alone? Love is a ring, the telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes. Scusate l'interruzione per motivi personali, era perché tengo la caldaia scassata, prima la da aggiustare, e con questo freddo e umidità, vabbè, lasciamo perdere cose che non ci riguarda. Allora, stavamo parlando di come, diciamo, di chi dovrà tecnicamente, diciamo, redigere progetti e controllarli, e questi fondi del PNRR. Allora, portiamo un esempio, come devo dire, lampante, derivante dalla nostra città, che ricordiamo il sindaco di Salerno, nonché presidente della regione Campania, un certo Vincenzo De Luca, già sa dove destinare i fondi. Allora, partiamo a cui i sindacati, servi sciocchi, anzi non tanto sciocchi, ma servi utili, di queste politiche privatistiche da decenni, stanno dando una mano. Tanto è vero che, allora, ecco, ribadiamo, De Luca ha già detto che deve costruire il nuovo ospedale. Invece di pensare alla nostra sanità, che ha strutture diffuse a territorio, ma non funziona per mancanza di personale e per mancanza, per dire un esempio, noi abbiamo un laboratorio nella zona orientale con un TAC che per pochi soldi potrebbe essere messo in funzione e non la mettono mai, è chiaro. Ne parliamo, così come anche nell'ospedale, diciamo, le TAC sono ridotte, è chiaro che chi ne beneficia? I privati o le cliniche confezionate, nonostante noi abbiamo nella nostra città un sistema sanitario che, diciamo, che con il personale necessario, eccetera, eccetera, avremmo veramente una sanità d'eccellenza, come abbiamo in alcuni reparti ospedalieri. Però sempre per le logiche politiche clientelari di quel che abbiamo detto prima, questa capacità viene ridotta se non impedita. Allora, allora ci abbiamo detto all'inizio, all'origine, che già, ecco, noi abbiamo una società privata che gestisce la questione della raccolta dei rifiuti, che e non è altro che uno di questi calderoni proprio clientelari, elettorali, legate, diciamo, strettamente alle agenzie interinali e le assunzioni che ci sono state, che avvengono spesso sempre a tempo determinato, sono legate alle agenzie interinali e alle segreterie politiche, le segreterie politiche dei partiti. E caso strano, chi andrà a gestire, per ciò che riguarda, almeno così si dice, così ufficiosamente uscito fuori, andrà a gestire i fondi del PNRR. Noi abbiamo fatto un comunicato che oggi è uscito, neanche un rigo, in cui lanciamo la proposta che i soldi del PNRR dovrebbero essere utilizzati per ricostruire l'intera macchina comunale distrutta dalle politiche di esternalizzazione, di privatizzazione, che da decenni, accompagnati dai, diciamo, dai sudditi, dell'organizzazione sindacale della funzione pubblica, che hanno accompagnato in questi decenni alla totale distruzione, diciamo espropriazione, no, espropriazione è un termine che non si dice, proprio despogliamento, ecco, distruzione, ecco, è la cosa più sintetico come concetto, distruzione della cosa pubblica. E tanto è vero che noi abbiamo questa situazione in cui di assunzione, e noi abbiamo un enorme bisogno di operai generici, quindi di spazzini che non è che fanno di igiene urbana, operatori ecologici che, diciamo, quotidianamente puliscono la città con le sezioni territoriali. Non li abbiamo più, abbiamo un'unica sezione centralizzata, che la cui opere di pulizia avvengono attraverso campagne pubblicitarie per dire: guardate, oggi faremo la pulizia tot Rione. E poi ci sta il quotidiano che manca. Il quotidiano che manca veniva espletato dalle cooperative sociali, che a loro volta sono state, diciamo, interessate da vicende giudiziarie per motivi di carattere clientelare, elettorale, gestione proprio clientelare, per cui diciamo sono state prima licenziate. Ora il TAR ha accettato il ricorso di alcune cooperative, però ne ha stromessi altre, quindi un macello. E queste figure di queste cooperative sociali pagate a livello di schiavi, 500-600 euro mensili, supplivano il lavoro che doveva fare questa società, diciamo, questa società privata, la Salerno Pulita, che diciamo c'è il riciclaggio della carta e tutto quanto il resto. Però su ciò che riguarda la manutenzione ordinaria di cui questa città ha bisogno di operai generici che manutentano le fogne, che salvaguardano le colline dalla cementificazione selvaggia. Noi abbiamo un esempio, diciamo, alle spalle, proprio confinante con il nostro centro sociale, di una strada che è un macello, cioè che hanno distrutto alberi per fare una strada di collegamento che poi alla fine è strettamente collegata alla cementificazione, che a forma di zampa di cavallo interessa dalla zona estrema sud all'estrema oriente della città, che andrà, diciamo, a sfociare in un'area attualmente occupata dalle fonderie Pisano, però che a sua volta i proprietari che stanno vedendo per la delocalizzazione, quindi che stanno risolvere il problema, chi deve pagare le opere di bonifica e la delocalizzazione, che già tanto è vero, questi proprietari hanno già presentato al comune un progetto di villetta schiera, di villa schiera, quindi diciamo, e nelle colline, diciamo, tra la zona estremo sud ed estremo oriente ed estremo nord, voglio dire zona est dell'estremo est della città, noi stiamo vedendo il sorgere di edifici privati. Allora, questo in sintesi per capire che uso ne potrebbero fare dei PNRR, quindi privatizzazione, esternalizzazione dei servizi, cementificazione selvaggia e la costruzione di questo nuovo ospedale. Allora, quindi, il buon De Luca ha già disegnato, basta vedere Salerno per capire cosa sarà la riforma Draghi, la controriforma Draghi a livello nazionale, quindi dalla cementificazione alla privatizzazione. E per ciò che riguarda la questione dell'assunzione di nuovo personale, non se ne parla. Abbiamo avuto l'assunzione di 120 unità tramite un concorsone in cui la maggior parte sono, una buona parte sono tutti laureati, ed ecco che mo i sindacati, invece di porre il problema sull'assunzione, quindi della ricostruzione dell'intera macchina operaia, pensano, è anche giusta la stabilizzazione di questo personale, anche se dobbiamo di salernitani, ce ne sono pochi, però come devo dire, in questa città noi sappiamo bene chi è. Allora, i vincitori di concorsi si dividono in tre categorie: per meriti, per fortuna, per culo rotto e perché mi manda picone, perché sono raccomandati. Ed è chiaro che queste 120 unità rientrano in che cosa? Rientreranno nei finanziamenti dei fondi europei, che sarebbero questo il personale altamente formato che dovrà andare a controllare la gestione, diciamo, dei fondi del PNRR, a cui ci sarà una quota di assunzione a tempo determinato e di convenzione esterna di personale. Quindi di personale, di operai generica, di chi salvaguardia, ecco, quotidianamente i servizi pubblici gratuiti per la città, non se ne parla, se non attraverso il terzo settore, che sono le cooperative, in poche parole. Nello stesso tempo, ecco, diciamo, l'utilizzo della tecnologia. Vediamo che è anche qua Salerno anticipato e quindi ci fa dimostrare come sarà appunto a livello nazionale la riforma Draghi. Noi abbiamo avuto la cosa più, oltre vabbè a dire, abbiamo avuto i parchi chiusi per mancanza di personale per più di un mese in piena, mentre lui urlava e istigava all'odio sociale contro chi era in Green Bus, in un conte che contro, diciamo, gli assembramenti. Cosa è successo nella nostra città? Che tutto il periodo di Natale e fino a qualche giorno fa i parchi sono stati chiusi per mancanza di personale, perché il personale era stato licenziato e sospeso per le vicende giudiziarie. Allora, e quindi questa è la faccenda. Allora il ragionamento, diciamo, ecco, noi abbiamo un altro esempio, che è strettamente collegata all'uso della tecnologia, e quindi, e poi questo andremo a capire, anche perché ecco, gli uffici dell'anagrafe. Gli uffici dell'anagrafe sono, noi sappiamo bene, stati di famiglia, carta d'identità, documenti, sono cose fondamentali e importanti. Sono stati chiusi gli uffici dell'anagrafe, gli uffici territoriali, sezione territoriale, ne è rimasto solo uno, che è posto in una zona della città che neanche i cittadini salernitani sanno, anche perché un pullman non ci arriva. Diciamo, si entra per come devo dire, uno prende contatto per prenotazione. A questo numero verde non risponde mai nessuno, quindi è un macello. Allora, il problema, ci sta l'uso della tecnologia, quindi che uno con i computer dovrebbe richiedere questi documenti, e diciamo, quindi il problema non è per la mancanza di personale. Sono state assunte queste persone qua, allora sostituiamo gli operai, i colleghi, i lavoratori, le lavoratrici che sono andati in pensione. Non lo si fa, perché il futuro sarà dell'uso della, diciamo, della tecnologia. Ecco, diciamo, ciò che, diciamo, deve, è il fiore all'occhiello della riforma Draghi, l'uso della tecnologia per tante cose. Allora, ecco, fra poco, allora, quindi, o si andrà, qualcuno deve avere un buon computer, quindi immaginiamoci quegli anziani che computer non ce l'hanno, persone che computer non solo persone anziane, ma anche persone che si rifiutano giustamente di, perché poi alla fine avere, collegarsi col computer, richiedere un certificato, uno stato di famiglia, è un'operazione inimmaginabile. E fra poco, oltre all'uso della tecnologia, sono state già date da qualche associazione culturale, qualche cooperativa sociale, il ruolo di, in qualche quartiere, uno deve andare là a prenotarsi per poi aspettare settimane, eccetera, cioè per documenti in cui prima, diciamo, in giornata si avevano, oppure a distanza di 24 ore, massimo 48 ore. Questo lo prevede proprio la legge. se no è nati in Beans, è un macello, è un macello. Ed è chiaro che questo metodo di gestione anche dell'uso della tecnologia, che dovrà supplire ciò che era il ruolo di un servizio pubblico, che è fondamentale per i cittadini, e dalla gratuità dei servizi e dell'anche della distribuzione territoriale dei servizi sono le prime forme di democrazia e di civiltà di una comunità. Ora, fra poco può darsi pure che uno stato di famiglia lo andremo a richiedere in un tabacchino, un fruttivendolo o da un macellaio, pur di non ripristinare i servizi, quindi assunzione pubblica del personale. Ecco, quindi noi abbiamo fatto tre esempi. E ora vediamo pure un altro uso, per dire le risorse, ci sta un importo di 4,2 miliardi di euro complessivi per, diciamo, per la banda larga. E caso strano, e quindi diciamo, sia la Calabria che la Sardegna, vabbè, sono, diciamo, gli sono state affidate la maggiore quota di risorse. Vediamo che, ecco, quindi la banda larga, l'uso della tecnologia. Vediamo che questi soldi, queste tot di soldi, andranno per la sanità, per i collegamenti di più ospedali. Questo viene presentato a collegamento agli ospedali, ma noi ricordiamo che il cioè l'uso della telemedicina, quindi come devo dire, supplire diciamo quei ruoli storici che avevano prima i medici di famiglia, che poi sono questi tranne una piccolissima parte sono diventati ormai, che si, ecco, già hanno anticipato il ruolo della telemedicina, invece di assumere e far funzionare l'assistenza domiciliare, queste cose qua, avremo la telemedicina. E diciamo, per cui la Lombardia è una delle regioni che diciamo, insieme al Veneto, caso strano, sono quelle che avranno più soldi. Alla faccia di quanto, diciamo, l'origine della, diciamo, proprio quando per la pandemia ha messo a nudo di che significa della vergogna, dello squallore, della distruzione della sanità pubblica per, diciamo, per favorire la sanità privata. E in Campania, caso strano, diciamo, per le sedi scolastiche. Non vorremmo che la DAD diventasse sistemica, così come anche lo smart working nei posti di lavoro, a cui, ecco, diciamo, con un'enorme sudditanza i sindacati, anche questo, diciamo, si stanno primeggiando, non dicono nulla sulle assunzioni, sulla questione della difesa dell'ambiente, del monitoraggio delle colline, del monitoraggio delle acque, eccetera, eccetera. Ecco, loro pensano solo allo smart working e l'assunzione di personale, di questo personale altamente formato. E la nostra città, diciamo, come dire, ha anticipato di molto questa riforma, controriforma reazionaria del governo Draghi. Abbiamo detto l'esempio dell'ufficio ANAC, l'esempio della gestione dell'igiene urbana, della manutenzione del verde, e quindi con i simboli dei parchi chiusi. L'ospedale, la costruzione dell'ospedale nuovo, però si investono soldi per l'uso delle tecnologie, per mettere, se da un lato è importante mettere in collegamento, a livello ci mancherebbe altro, ospedale per cose importanti, ma il problema lo sappiamo bene, che dietro ci sta il concetto della telemedicina, che invece di assumere personale, allora un povero anziano, una povera Cristo, un po' povere famiglie, non essendoci una sanità territoriale, allora l'uso del computer. E quindi, in attesa del 5G, quindi avremmo, diciamo, questo un enorme 5G che che è, diciamo, tra l'altro è molto anche pericoloso per ciò che riguarda l'inquinamento elettromagnetico. Quindi abbiamo un insieme di situazioni, e il simbolo di Salerno è un simbolo di quel che sarà, diciamo, a livello nazionale. Però pure noi qua siamo come compagni e compagne impegnati non solo storicamente sulla questione del lavoro, ma anche di recente, a coinvolgere più realtà, più compagni. Però noi abbiamo da un lato abbiamo un esercito di precariato sociale che è ricattato, e ciò non lo giustifica, che poi per i motivi legati alla tifoseria fanno scontri e via dicendo, per il lavoro hanno paura, oppure temono di inimicarsi personaggi legati a reticolati dei potentati locali che nei quartieri hanno una vera funzione di controllo sia elettorale che sociale. Allora, come detto prima, noi stiamo trovando delle grandi difficoltà, aggregare compagni, aggregare realtà sociali. Noi nell'ultima iniziativa di prima del grande freddo, diciamo periodo di gennaio, ci siamo ritrovati in pochi, non dobbiamo vergognarci ad esprimere la realtà. Però il problema è che non è che si abbia bisogno delle grandi masse, ma pure l'ultima notizia è che i fondi del PNRR verranno gestiti da Salerno Pulito, questo containers di clientele, intrallazzi politico-clientelare, nessuna indignazione, e questa è la questione. L'indignarsi per primi, come molto spesso noi abbiamo spesso fatto delle trasmissioni su questa sinistra salernitana molto turistica, come se qua non vivesse, come se non pagasse le tasse in questa città, che ricordiamo sono le tasse più care d'Italia, per andare a mantenere in piedi un sistema clientelare del potentato politico ormai che è entrato nel suo trentennale, insomma. E questa è la cosa che ci pone a volte serissimi dubbi, insomma. Allora, ecco, vado alla chiusura, scusatemi se mi sono dilungato. Il più bel ricordo, ecco, che molti compagni stanno ponendo, è il fatto che quasi nel 77 la cacciata di Lama dall'università. E quel ricordo dovrebbe coinvolgere molti studenti universitari a riappropriarsi del proprio protagonismo. Fortunatamente forse abbiamo questa nuova generazione di studenti che man mano si sta riproponendo con i suoi bisogni materiali. Ciao compagni e compagni, alla prossima.